L'atmosfera è quella di una bella fiaba. Ambientato a Gerusalemme durante la Terza Crociata, lo spettacolo racconta come il saggio mercante ebreo Nathan, il sultano Saladino e un templare riescano a colmare il loro divario tra ebraismo, islamismo e cristianesimo. Giovane affermato regista, allievo di Ronconi dal quale ha preso l'eleganza e il gusto per le invenzioni sceniche fantasiose, Carmelo Rifi ci mette in scena integralmente i cinque atti del poema di Lessing, un inno alla tolleranza religiosa, all'amicizia e all'amore, che mette le tre grandi religioni monoteiste sullo stesso piano, all'insegna di un unico, grande, importante patrimonio comune di verità e di armonia tra gli uomini. E propone una lettura fedele dell'opera, scritta in versi e qui tradotta in prosa, curandone la drammaturgia senza renderla forzatamente contemporanea, lasciando intatti equilibri e struttura della commedia tra equivoci, suspense, ironia ed emozione in un intreccio vivace di colpi di scena. Le scene sono grandiose ma essenziali, minimaliste e monocromatiche, una pedana e pareti lineari scorrevoli color sabbia, da dietro le quali compaiono e scompaiono i personaggi. I bei costumi sono orientaleggianti e le luci calde contribuiscono a immergere la storia in un clima fiabesco. Il cast, ottimo, vede eccellere su tutti Massimo De Francovic nel ruolo di Nathan e Fausto Russo Alesi nel ruolo di Saladino. Lieto fine, commovente, molti applausi in conclusione di 3 ore che passano veloci per uno spettacolo importante che fa riflettere con leggerezza sulla necessità del pluralismo e l'attenzione alle ragioni degli altri.